Picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. La montagna vissuta a 360 gradi. La puntata 70 di Picchi di Frequenza apre come di consueto con le news della settimana, chiude con un po' di buona musica, non avrà la rubrica di pedagogia della montagna perché quest'oggi ci occupiamo di diverso e il suo rilievo e facciamo assieme a Franco il bilancio della prima festa di Alpinismo Molotov. Non c'è puntata di Picchi che apra senza le news della settimana, rassegna stampa di montagna, e noi andiamo a incominciare da Mount City, i paladini dell'enduro, motore monocilindrico a quattro tempi, alimentazione e iniezione, prezzo di listino 9.620 euro. Niente di meglio di questa moto da enduro per correre e divertirsi, come informa la pubblicità in Google, dove, per boschi e per prati, in barba a leggi e regolamenti, ha fatto il botto la lettera del sindaco di Bergamo, apparsa il 24 maggio 2017 nelle pagine locali del Corriere della Sera. E, riassumendo, il sindaco giudica un'opportunità la presenza degli enduro nella bergamasca, grazie a una pista da ampliare in collaborazione con il CAI. Se volete farvi salire la bile, andate a leggervi questo articolo tratto dal portale Mount City. Mentre notizia di una settimana fa, presa da tratta da montagna.tv, Everest, la stagione si chiude all'insegna delle polemiche che riguardano gli Sherpa. Siamo a fine stagione dell'Everest e quest'anno le divinità terribili delle montagne sono state sconfitte da quelle benevoli. Dopo anni nessun lavoratore d'alta quota ha perso la vita. I nostri amici Sherpa se la sono cavata, sebbene qualcuno con grave congelamento. Meno fortunati i sei aspiranti alla vetta che hanno perso la vita in questa stagione, ma visto l'affollamento si poteva rischiare, come aveva detto Messner, almeno una decina di morti. È andata meno peggio del previsto. I toni dell'articolo sono abbastanza terribili, però è una testimonianza, un resoconto di quello che è il meccanismo delle agenzie, il meccanismo turistico che utilizza gli Sherpa per raggiungere le alte vette dell'Himalaya. Ci sono una serie di resoconti sugli incidenti che ci sono stati negli ultimi anni e vale la pena ripassarlo per avere un punto di vista diverso da quello che lo scorso 4 giugno, sempre su montagna.tv, ha come titolo Everest rimosse 5 tonnellate di rifiuti. La montagna più alta del mondo negli ultimi tempi è stata invasa da sempre più spazzatura. La causa è l'inciviltà degli alpinisti o pseudotali che non provvedono a smaltire almeno quanto possibile dei loro rifiuti una volta tornati a valle. La complicità del governo nepalese che non applica alcuna norma, per cui ogni persona che si reca in quota dovrebbe essere disponibile a smaltire almeno 8 kg. E la troppo frequente assenza degli ufficiali di collegamento, insomma, e poi la cosa prosegue, ma la parte interessante è che una spedizione di 40 giorni dal titolo Everest Green, che si è conclusa non più di 2 settimane fa, ha recuperato spazzatura tra il campo base e il colle sud, quindi tra i 5.300 e i 7.906 metri, di ben 5 tonnellate per 150.000 euro di costo a carico di Montagne et Partage. Torniamo nelle nostre valli, torniamo a parlare di motori molesti, perché la Valmaira dice no appunto ai motori molesti. L'inverno scorso il comune di Balme ha tirato su di sé l'attenzione per aver dato un segnale precludendo sul proprio territorio qualsiasi attività ludica e o turistica facente uso di veicoli a motore, per favorire invece un approccio sostenibile. Oggi quell'intendimento viene ribadito perché l'Unione di Comuni della Valmaira ha deciso di fermare il dilagare di moto e fuoristrada da sentieri e strade di montagna, politica su cui, come dicevamo in apertura, il CAI ha invece posizioni, diciamo così, un pochino una punta più ambigue. Ed andiamo a concludere invece questa prima rubrica con mountainblog.it, che ci consegna un brano dal titolo L'impatto ambientale della neve artificiale nell'analisi Enea. I dati dell'analisi sul sistema neve al Green Social Economy Summit di Rimini di questa settimana, questo lunedì. Quali sono i costi ambientali e sociali del sistema neve su cui si regge il turismo invernale in montagna? Per la prima volta in assoluto in Italia, uno studio analizza la carbon and water footprint della neve artificiale, ovvero, in altre parole, il suo impatto ambientale. Lo hanno realizzato i ricercatori del Centro Enea di Bologna, un'esperienza pilota dalle ricadute decisamente importanti. Il tutto, lo streaming dell'incontro, ma anche un approfondimento con i link più adeguati, si può seguire dal sito ufficiale gseconomysummit.com. E prima di entrare nel filone principale, nella rubrica principale di questa puntata, come sempre qualche segnalazione d'alta quota. Noi andiamo a incominciare dal trekking alla scoperta di Montisola, promosso dall'Ape Brescia il prossimo 11 giugno, in altre parole dopodomani. Montisola, terra meravigliosa, alla scoperta dell'isola che non si conosce. Radio Onda d'Urto, Siamo Gatti e Ape Brescia propongono un percorso particolare con la nostra guida turistica Rossana. I luoghi meno noti ma bellissimi di Montisola, insomma, se volete scoprirli, ritrovo alle ore 8.45 alla stazione dei treni di Brescia oppure 9.45 all'imbarcadero di Sale Marasino, di dislivello totale 400 metri. Mentre ci spostiamo decisamente più a sud e decisamente in avanti di almeno un paio di settimane, perché il prossimo 24 giugno si terrà il terzo hike di Ape Roma. Quest'anno il nostro campo sarà all'interno del camping Fiumata di Fillettino. Monteremo le nostre tende e ci muoveremo verso le cime solo dopo aver trascorso una bella serata tutti insieme. Tornei di ping pong e biliardino, ma soprattutto la costruzione del grande hike, del grande attendamento di Ape Roma, che sarà quello che poi rivedremo in Valle di Susa a fine luglio. Uno stacco musicale e poi si entra nel vivo con Alpinismo Molotov. Siamo quest'oggi al telefono con Franco. Franco, oltre che un amico, è uno degli animatori di Alpinismo Molotov, che la scorsa settimana, dal 2 al 4 giugno, ha promosso la sua prima festa. Il titolo era Diverso il suo rilievo, il luogo che li ha ospitati era lo spazio sociale Visrabbia di Avigliana e, come promesso, proviamo un pochino the day after, la settimana successiva, a fare il punto su questa bella e partecipata iniziativa. Questo si può dire, anche se forse è scontato ma banale non lo è mai. Quindi ciao Franco, benvenuto, e cominciamo dal principio. Che cosa è successo dal 2 al 4 giugno ad Avigliana? Ciao Abo, e un saluto a tutti e a tutte gli ascoltatori e ascoltatrici. Dal 2 al 4 sono successe molte cose. Innanzitutto dico subito che per Alpinismo Molotov questa festa è stata una messa alla prova e ne usciamo molto felici per la riuscita, e non ci aspettavamo una partecipazione così ampia di persone, ma al di là della questione quantitativa dei numeri, anche la qualità della partecipazione. E dal 2 al 4 ci sono state molti momenti di socialità e di convivialità, ci sono state delle presentazioni e poi magari diciamo quali, e soprattutto c'è stata la possibilità di camminare insieme. Abbiamo iniziato il venerdì con i saluti e poi sabato mattina i gruppi si sono divisi e un gruppo è salito molto numeroso, numerosissimo, passando per il Grand Per Tours, arrivando alla cima dei Quattro Denti. Un altro gruppo invece più, diciamo, composto anche con bambini, e quindi ha fatto una camminata più tranquilla sul Lago Grande di Avigliana. E la domenica altri due gruppi più una biciclettata che ha fatto il giro dei presidi notave in Val di Susa, di alcuni presidi notave in Val di Susa, mentre ci sono state due escursioni, una sul Musinè con la guida di Mariano Tomatis, e infatti il titolo dell'escursione era un'escursione aliena sul Musinè, e un'altra escursione guidata da Luca Giunti, notave, guardaparco, che per il blog abbiamo intervistato sulla questione del lupo e che ci ha accompagnato attraverso un viaggio attraverso la cultura materiale, quindi castagneti, cave abbandonate, boschi e tutto quanto ha a che fare con gli aspetti della vita di un tempo in quella zona. Di gite, non soltanto gite, ma anche una serie di appuntamenti, presentazioni di libri, incontri con autori, da Enrico Camanni a Matteo Melchiorre. Cioè, chi era il pubblico di questa prima festa di alpinismo Molotov? Il pubblico è... stiamo cercando di capire ora nel post, perché veramente, essendo questa la nostra prima festa, prima di trovarci da Avigliana non avevamo la più pallida idea di chi potevano essere i partecipanti. Chiaramente c'erano i nostri compagni di Scarpinata, che nomino subito e che ringrazio a nome di tutti per la partecipazione, quindi l'APE Milano, l'APE Roma, l'APE Brescia, il CAT di Genova. La loro presenza era annunciata, ci faceva molto piacere, ed è importante che ci siamo trovati per tre giorni e ci siamo confrontati, abbiamo chiacchierato, e speriamo che questo faccia sì che in futuro la collaborazione si faccia più stretta anche, e magari capiti più spesso di camminare insieme. E poi singole, lì è stata un po' una sorpresa, perché ci siamo trovati veramente molte persone. Venerdì sera ci siamo basati sui conteggi dei pasti forniti dal Visrabia, con un servizio eccezionale che ha saputo proprio anche gestire un numero di persone che si è palesato solo lì. Noi avevamo poche anticipazioni su chi, sul numero dei partecipanti, e hanno fatto da mangiare sulle 150-180 pasti, che è un numero che, a ripensarci ancora ora, importante. Sul giorno dopo, sui Quattro Denti, sono arrivati in cima circa 85-87 persone, più alcuni che hanno rinunciato prima, però il numero dei partecipanti anche in quell'occasione è stata l'escursione sicuramente più affollata, arrivava quasi a 100. Magari partiamo proprio dal Per Tours, perché di quella escursione forse un resoconto è già stato pubblicato in queste ore, e racconta la storia del buco di 450 metri scavato a metà del 1500 per dare acqua a due delle borgate, quella del Chelsea e quella di Ramaz, che stanno sovrastanti a quello che oggi è tristemente noto come il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte. Però non soltanto appunto l'escursione al Pertus, ci sono state le altre gli altri momenti di cui ci hai parlato. Che cosa accade adesso? Dove va Alpinismo Molotov? Verranno pubblicati altri contributi? Ritorna ad essere un blog? Si immagina già altri momenti, diciamo, di non soltanto digitali di incontro? State già tentando un bilancio, diciamo così, dell'iniziativa, o ci si prende una settimana di pausa e poi si vede? No, stiamo già tentando un bilancio dell'iniziativa, stiamo capendo come chiudere anche pubblicamente questa fase della festa, e quindi come nel nostro stile vorremmo raccontare la festa con un racconto a più voci, e infatti abbiamo già invitato tramite il nostro blog, e rinnovo l'invito anche qui dai microfoni di Picchi di Frequenza, a inviarci, per chi ha partecipato, il loro racconto, un aneddoto, ma quello che gli viene sulla tre giorni di festa. E l'idea poi appunto è quella di costruire un resit collettivo della festa, e all'interno di questo probabilmente ci troveranno spazio anche riflessioni che fanno riferimento invece alle presentazioni, quindi alle discussioni che si sono avute con al dibattito che ho avuto con Enrico Camanni, Matteo Melchiorre, e questo è il prossimo passo. La festa poi è andata così bene che già stiamo pensando alla seconda edizione, e abbiamo già qualche idea. Non anticipo niente, magari anticipo che vorremmo farla non sulle Alpi, giusto per incuriosirvi, però appunto, sono le idee che vengono con lo slancio del successo di questa prima festa. Comunque quello vorremmo cercare di organizzare per l'anno prossimo. Ok, senti, restando invece, abbiamo citato una buona parte del programma, non abbiamo detto che c'è stata anche un'intensa sessione musicale, ricordo tra le altre, visto che sono grandi amici, il duo Passamontagne, che tra cavallo tra Vogogna e la Francia, la zona di Marsiglia, ci ha insomma accompagnato in acustico per una lunga serata prima dei concerti. Ci sono stati anche annunci che riguardano proprio l'Ape, ma non ne stiamo a parlare adesso. Volevo invece chiederti, per quanto riguarda le persone, a parte le realtà organizzate, se vogliamo, che hai già citato, per quanto riguarda invece le persone che tu hai incontrato, senza adesso usciamo un attimo dal bilancio più politico del programma dell'iniziativa, chi sono? Sono lettori del blog? Sono persone che vi hanno conosciuto attraverso il movimento Notav, tramite il Visrabbia, perché erano indigeni della Bassa Valsusa? Da dove sono arrivati, visto che abbiamo incontrato, così parafrasando insomma, la foto di vetta del Pertus dei Quattro Denti è stata fatta da un ragazzo di Macerata, e quindi mi chiedevo un po', sì, da dove arrivavano gli amici che hanno deciso di partecipare alla festa, come ci sono arrivati, insomma, tu chi hai incontrato? Ma ho incontrato veramente un vario campionario, sicuramente c'erano alcuni locali, ma sinceramente ho trovato molte facce che venivano da fuori, anche che i locali si stupivano di trovare lì, perché erano facce non conosciute per loro. Solitamente quando si fa un grande evento in Val di Susa ci sta che arrivino gente da tutte le parti d'Italia, e questo non stupisce nessuno. Però quando si organizza un'iniziativa in una dimensione comunque piccola come quella che era il nostro festival, per quanto per noi sia un successo, comunque non era un grande evento, in molti si stupivano che ci fossero così tante persone che provenivano da fuori dalla valle e da fuori dal Piemonte. E in effetti abbiamo conosciuto molte persone, molte sì, che seguivano il blog, altre anche che sono state agganciate nell'ultimo periodo, da quello che dicono, e quindi lì hanno scoperto il blog, ma già con l'idea di venire alla festa. E appunto tu citavi il ragazzo di Macerata, ma ce n'erano anche altri che venivano da fuori, e queste persone speriamo ora che continuino con noi e con tutto questo network che si è creato attorno alla festa, che continuino a collaborare, a seguirci, comunque a condividere questo discorso critico sulla montagna, sull'andare in montagna, che è alpinismo Molotov, ma non solo. A questo punto abbiamo la conferma che non è solamente alpinismo Molotov, ha a cuore come discorso. Allora ti chiederei in conclusione di ricordarci anzitutto dove leggiamo, dove entriamo in contatto, dove possiamo proseguire la conoscenza di alpinismo Molotov, quindi a te i riferimenti, a me invece il ricordare che tra le altre cose, oltre che un blog, alpinismo Molotov è già anche un libro o un libretto, insomma una antologia del meglio della produzione di questi due anni di AM. E appunto invece ti chiederei da qui alle prossime settimane dove vi leggiamo. Allora, ci leggete sempre, che è il nostro punto di riferimento principale, che è il blog alpinismomolotov.org. Se volete inviarci, contattarci, o per chi ha partecipato alla festa inviarci la propria testimonianza, può farlo via mail scrivendo a info@alpinismomolotov.org. Abbiamo da non molto tempo anche un profilo Facebook e un account Twitter che trovate facilmente. Perfetto, io invece ricordo, approfitto per ricordare che per chi non ne avesse avuto abbastanza della 3 giorni di alpinismo Molotov, dal 16 al 18 giugno ci sarà in Val Camonica l'appuntamento di SPOP, Festival dello Sport Popolare, in cui, perché no, penso che riusciremo anche a incontrare qualche apeino bresciano, mentre dal 27 al 30 luglio torniamo in Val di Susa, un pochino più in alto perché l'appuntamento è a Venaus, l'occasione è quella del Festival Alta Felicità, ma anche del campeggio dell'Associazione Proletari Escursionisti, che si terrà proprio in contemporanea all'interno durante il Festival Alta Felicità. Ringrazio Franco per essere stato in nostra compagnia e ci risentiamo presto, non appena Alpinismo Molotov vorrà raccontarci la sua prossima impresa. Grazie a voi, grazie a te Abo. Ciao, saluto. Grazie. Ciao. Di mano a 1562,4 contro le 1561 della precedente chiusura. Il contributo del 10%. E noi invece ci andiamo ad ascoltare il documentario, anzi il video trailer di Fabiano Ventura, fotografo ambientale e divulgatore. Il titolo del progetto è Sulle tracce dei ghiacciai, e appunto questo trailer vi racconta, anche se non potete vedere le bellissime immagini, vi racconta di una spedizione nella Patagonia cilena ed argentina, tutto giocato sul confronto tra le foto di un secolo fa e le immagini di oggi e le rilevazioni degli scienziati. Toda esta montaña cada año han ido perdiendo más el hielo. En invierno poca nieve. Allora, abbiamo installato questa palina il 24 di marzo, l'emersione era 23 cm, quindi in una settimana ha perso circa 27 cm di spessore. Adesso inizio a fare il transetto lungo tutto il perimetro di questo crepaccio e per ogni scatto con il GPS prendo le coordinate geografiche. Questo mi permette di realizzare un modello tridimensionale di questo ghiacciaio e mi permetterà di utilizzarlo per finalità divulgative. Il primo dias con buon tempo chiamiamo a chi? La condizione del clima ora sono molto male. glaciares, como casi el resto del mundo, están retrocediendo. Per capire meglio abbiamo messo una stazione meteorologica al ghiacciaio Moreno vicino a 400 metri. Sono certo che questo progetto mi aiuterà a smuovere la coscienza delle persone, far capire, a cercare di comunicare quanto sia importante la natura, la bellezza. Preservarla vuol dire preservare l'umanità, noi stessi. Ver esta foto y ver cómo han cambiado la fisonomía de los glaciares, cómo se han derretido, genera esa pequeña conciencia que a nosotros es súper importante porque la humanidad tiene que cambiar. Anche questa puntata, ed era la numero 70, in compagnia di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Come di consueto vi invito a condividere con la redazione di Picchi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, collaborazioni, quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di Frequenza o quello azzurro all'account @abuzzo3. Come sapete ci potete sentire in modulazione di frequenza dalla radio, ci potete sentire in streaming o download dal web, dove nel luogo dove raccogliamo l'indirizzo completo, l'archivio completo, scusate, della trasmissione. Il sito è amonte.info, mentre noi ci risentiamo venerdì prossimo, come sempre alle ore 20 in punto, sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.